Ok, andiamo. Non so studiare. Facciamo 7-10, perfetto. E questa è la seconda partitura. Sottoponiamo Silvia, Giacomo e Travis. 1, 2, questa è più complessa. 3. Questa è molto 4 colori più il fondo. Io faccio il fondo. Io faccio tutto dentro il cerchio. Che c'è più intrigante? C'è un cerchio. Come si chiama un cerchio? Travis. Silvia, già come Travis. Sì. Quindi mi sembra di capire, non volete seguire comunque nessuna linea temporale. È più difficile. Però sembra essere molto centrico. Sì. Vero? Mm. Intuito, geniale. Potete anche valutare lo spessore dei cerchi. C'è uno spessore importante sul cerchio. Su questi gesti. Che se il verde, perché il verde qua è molto più scuro. Sì. Quasi nero. Bello. Che altro è lo stesso verde, soltanto che ha un tratto molto più scuro, quindi anche qua ha un rilievo importante. Quindi anche questo, quello che scende qua, è un verde. È strano, cioè, sembra che alcuni elementi vadano verso il cerchio, altri vanno fuori dal cerchio, così. Poi invece più là, adesso più così e poi non lo so, una lettura così. Mm-hmm. Due cose che coesistono. Sì. Io inizio sempre da qua, non so perché, e poi tutte queste forme si espandono qua, no? Mm-hmm. Vengono riprese così. Sì, esatto. Ah, ognuno inizia da dove. A me piacerebbe lavorare sul cerchio, mi piace questa cosa che segue comunque una direzione e che comunque dà diversità. Noi possiamo lavorare sui gesti, cioè nel senso proprio più tecnicamente sugli strumenti, possiamo dire così, sì, quindi magari qui parlo per me dei gesti appunto, sì, strumenti. Sì, anche io pensavo qualcosa del genere. E poi appunto sul cerchio, quindi lavorando su gesti. Perché questa cosa di suono lungo, adesso traduco un po' in termini... musicali, no? Parlo di suono, vabbè, comunque di segno lungo che però si interrompe, che ha diversi spessori. E poi c'è questa cosa qua, che è molto, molto... è come se volesse rompere questa linearità. Sì. Non so se vogliamo dargli una... Potrebbe anche essere interessante se qui ci fosse un unisono, però non è facile... capire o comunque unisono comunque degli scontri magari gli scontri più sì rispetto magari al qualcuno resto lo della... può suggerire in esatto. qualche modo e poi ci sono questi segni esterni in cui isolati questi qua poi vabbè all'interno del cerchio lavorare sulle masse di suono delle masse, sono delle masse di suono. Mi viene un po' da fare una lettura di tipografico, cioè come dire un collegamento grafico col suono, segno suono, cioè è difficile astrarsi da questa cosa piuttosto che una cosa, cioè non tenerne conto, cioè voglio dire, io guardando questa cosa dico, vabbè, ok, posso interpretare questo, ma mi viene anche da pensare, però vorrei fare, mi sento qua, è come se quello fosse il mio ruolo, cioè di fare, però non lo so, questo poi magari nel corso magari d'opera. Oppure magari abbiamo questi segni riferiti al movimento, possiamo buttarli all'interno dell'improvvisazione senza tenere conto di una conseguenzialità, però ci sono dei, non lo so. Non so. Cosa dici, Travis? Io sto pensando tantissimo su questo blocco che ho tra i colori e le forme tipo no, amplitudine, colore del suono, no. Viene ad attribuire un colore al suono. Sì, esatto, ma perché non voglio entrare in quel senso, no? Quindi no, stavo certo. pensando anche un po' su queste, magari più astrattamente, su intenzioni, no? Magari su, invece di proprio il suono, l'intenzione che sta dietro il suono. E magari questa intenzione è diverso da quello, no? Mm-hmm. Però potrebbe essere il stesso suono. Però mai lì più compatto, una massa sonora più, invece lì inizia sì. a sfibrare. Cioè che è una forma geometrica più definita quella, perché mm-hmm. con un rettangolo questa è una macchia più informale, sì. no? Più informe, informale, insomma. C'è ci sono delle geometrie e delle forme invece più libere, più casuali, tra virgolette, sì. no? Quindi forse si può pensare anche in questo senso. Cioè a farle incontrare, vabbè. Magari ognuno le prende in maniera sì. un po' randomica dentro della composizione, queste cose si scontrano, più che farne una lettura proprio. No, beh, no, infatti una lettura è un po' complessa. Non necessariamente, uno potrebbe decidere anche di partire. Esatto. Sì. Posso dire di partire da qui, che sembra quasi essere un elemento, come dire, che va poi a formare il cielo, mm-hmm. quasi una specie di cellula, no? Da che, non che, concreto che, diventa un po' comunque no, più... Uno spermatozoo. Sì. Una lettura freudiana. Esatto. No, lui lo ha creato. Un girino. È una creazione questa. Bene, possiamo andare. Avete anche altri, come possiamo fare? Altro possiamo metterla qua la pittura, qui la vedete tutti e tre. Sì. Sì. Ecco. Però sì. un po' di là, perché tu sei da, là, quindi anche da Bozzi deve poterla guardare. Dovrebbe essere chiara per te. Sì. Tempo, avvio il tempo. Io ok, vabbè, se volete